giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. 15 gennaio 1993. A Palermo è una giornata fredda. Il vento che viene dal mare porta nuvole e brutto tempo. Il lungo e paziente lavoro di intelligence porta i carabinieri del ROS ad un indirizzo preciso. Via Bernini, una villa dentro ad un residence. In quel luogo, tra i più conosciuti del capoluogo siciliano, dottor Ina, il capo dei capi di Cosa Nostra, vive tranquillo e impunito. Dello Stato, lui è latitante da 30 anni. In un'auto di copertura i carabinieri si portano dietro un picciotto di grosso calibro, Balduccio Di Maggio, ormai da alcuni mesi collaboratore di giustizia. Le sue rivelazioni indirizzano i carabinieri verso via Bernini. Dottor Ina viene arrestato a pochi metri dal suo covo, il giorno in cui Giancarlo Caselli diventa procuratore capo della Repubblica a Palermo. È il riscatto dello Stato, sei mesi dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, del maggio e del luglio del 92, quando la mafia uccide Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il PM di Palermo, Antonio Ingroia, ricostruisce a Radio 24 quei mesi che separano l'attacco dalla mafia stragista alla risposta dello Stato. Il 92 è quella stagione terribile delle stragi, diede l'impressione di uno Stato impotente, di uno Stato piegato e di una mafia fortissima e invincibile. Questo gettò nello sconforto tutti gli italiani, ma nel contempo determinò una reazione di tutta la comunità nazionale, prima di lo sdegno, la rabbia, ma anche la reazione civile, il coraggio e una forte richiesta di reazione da parte dello Stato. Quella reazione da parte dello Stato ci fu una reazione corale, collettiva, a tutti i livelli, di tutte le istituzioni, non solo quelle giudiziarie e di polizia, ma anche parlamentari, governative. Vi fu un impegno, direi, a 360 gradi, sicuramente, direi senza precedenti, che si tradusse in un'azione concreta, misure legislative all'altezza dello scontro, misure di tipo amministrativo, di impiego di uomini e mezzi, che determinò una sorta di vero e proprio circolo virtuoso tra Stato e società civile che si ritrovarono unite nel contrasto alla mafia. Questo determinò quella fase che prima dicevo, una fase di grandi risultati, di grandi risultati importanti sia sul piano repressivo sia sul piano anche della sensibilità, della coscienza antimafia, di un recupero di legalità in terre che erano afflitte dal vero e proprio controllo della mafia, che si tradusse poi in risultati operativi importanti come la cattura di tantissimi latitanti di mafia importanti nel breve volgere di qualche anno, da dottor Rina in poi l'elenco sarebbe lunghissimo, l'individuazione dei responsabili di quelle stragi che furono processati e molti di questi già condannati. Poco dopo l'arresto di dottor Ina i responsabili dell'operazione vanno a pranzo e proprio lì iniziano i misteri. Scrive una delle persone presenti, il procuratore aggiunto Alicuò. Sergio Di Caprio, il capitano ultimo, vuole vedere chi sarebbe venuto a prelevare i familiari di Irina. Interviene l'allora capo dei ROS Mario Mori, oggi direttore del SISDE, garanzia di controllo assoluto e costante. Durante quel pranzo si decide dunque di non perquisire la villa di via Bernini, dalla quale il boss è uscito la mattina del 15 gennaio del 93. Ma si vuole controllare a distanza per far credere ai boss di Cosa Nostra, quelli ancora in circolazione, che il covo non è stato individuato. Negli anni parlano alcuni pentiti. Dicono di essere andati a prelevare la famiglia Rina per riportarla a Corleone. di aver ripulito l'appartamento premurandosi perfino di tinteggiare le pareti per evitare il prelievo delle impronte digitali. Altri pentiti svelano presunte trattative tra Riina e lo Stato dopo le bombe del 1992. Emergono particolari su incontri riservati tra il colonnello Mario Mori e l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, condannato per mafia. E Giovanni Falcone, i pentiti, erano preziosi, importanti, determinanti nella lotta contro le cosche criminali. Questo fenomeno, sicuramente nuovo per le sue dimensioni nella storia della criminalità in Italia, ha aperto una breccia importante nel muro dell'omertà, finora ritenuto impenetrabile, e ha provocato seri contraccolpi all'interno delle strutture criminali, facendone vacillare la carica intimidatrice ed incrinando antichi assetti di potere. La potenzialità dirompente del pentitismo è stata immediatamente percepita, con la consueta tempestività, dalle organizzazioni criminali, che hanno reagito con una lunga serie di intimidazioni e di feroci vendette. Siamo nel 2005. Si apre il processo per stabilire le responsabilità per la mancata perquisizione in via Bernini. Il colonnello Sergio Di Caprio, il leggendario capitano ultimo, depone protetto da un paravento e ricostruisce così la sua versione dei fatti. Bisognava proseguire con l'attività di osservazione dei movimenti di Tutorina, dice. Sarebbe stato utile per dare un ulteriore colpo a Cosa Nostra. Pronto che volevano svolgere invece una perquisizione all'interno di questo complesso di via Bernini 54. Mi venne a me, ma credo sia nei fatti, che un'attività all'interno di quel comprensorio recava di per sé pregiudizio al buon andamento di quell'attività di polizia giudiziaria. L'attuale colonnello dei carabinieri, Domenico Balsamo, nel 1993 era capitano dell'arma. Lavorò insieme a Sergio Di Caprio nelle indagini che portarono all'individuazione del covo. Dall'arresto di Baldassare Di Maggio a Novara, fino all'arresto di Tuttorina il 15 gennaio del 1993, alla decisione di non eseguire alcuna perquisizione immediata nella villa. Non rispose no, non lo facciamo più, e neanche sì, sta tutto andando benissimo. Rispose servizio è difficoltoso, il personale è stanco, forse lo stiamo alternando, forse non c'è più l'esigenza. E alla fine del nostro racconto c'è qualcosa di inquietante. A distanza di anni dall'arresto di Dottorina, quella che fu la sua ultima residenza non compare nemmeno nell'elenco dei beni sottratti alla mafia, quelli utilizzati dalla società civile. Una sorta di affronto, una beffa, per quanti restano ancora oggi impegnati nella lotta contro Cosa Nostra, in Sicilia e nel mondo. Le erbacce sono le padrone del giardino, la piscina è piena di foglie secche, lo sporco e qualche crepa sono il segno dell'abbandono. A distanza di 12 anni dall'arresto di Totò Riina, quando il generale Mori e il capitano ultimo sono sotto processo per i ritardi nella perquisizione, quella che fu l'ultima residenza del boss di Corleone non è nell'elenco dei beni sottratti alla mafia e utilizzati dalla società civile. La confisca definitiva per la villa di via Bernini 52 infatti non c'è. La causa, un'intricata vicenda giudiziaria del proprietario Giuseppe Montalbano, titolare della società Villa Antica, che aveva affittato l'immobile di via Bernini ufficialmente a tale Giuseppe Bellomo, prestanome di Riina. Dal 5 luglio 2004 la Corte d'Appello di Palermo è in riserva per stabilire se accogliere o meno il ricorso di Montalbano contro la confisca decisa dal Tribunale di Agrigento. E sempre in secondo grado deve invece ancora cominciare il processo contro lo stesso Montalbano, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Così, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, anche questo immobile, simbolo della lotta a Cosa Nostra, è bloccato come molti altri beni sottratti alla mafia.